2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Iniziamo subito con le notizie che abbiamo selezionato durante la settimana, condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dall'Italia. Money More, che è una startup italiana fondata appena 2 anni fa e attiva nel campo dei prestiti istantanei e dei sistemi di analisi del rischio di credito dei consumatori, è stata acquisita dalla svedese Klarna, la più importante fintech europea. Devo dire che quasi sempre quando assisto ad una presentazione in ambito fintech, Klarna con la K davanti viene molto spesso citata per il tasso di innovazione e anche per il successo che ha avuto. Una startup che è valutata oltre 5 miliardi di euro. Questa vendita di Money More, di cui non è stato svelato il valore, è comunque un bel colpo anche per Digital Magix, che aveva quasi il 14% della startup. Secondo AudiWeb, nel 2019 ogni mese hanno navigato in internet mediamente 41,6 milioni di italiani, pari al 70% della popolazione dai 2 anni in su, se si considera solo la popolazione della fascia 18-74 anni, saliamo all'87% della popolazione. L'amministratore delegato di Sky Italia, Massimo Ibarra, ha confermato al Sole 24 Ore che il debutto di Sky nella telefonia mobile e nel mercato della banda ultralarga avverrà entro i primi 6 mesi del 2020, grazie all'accordo con Open Fiber. Ricordiamo che parallelamente c'è anche un accordo con Fastweb. Sicuramente l'entrata sul mercato del broadband di Sky sarà un elemento che cambierà alcune dinamiche del mercato, da seguire attentamente. L'amministrazione Trump ha concesso altri 45 giorni di esenzione al divieto di vendita di tecnologie americane a Huawei. La società cinese, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte, è stata messa nella lista nera, in blacklist, e questo significa che è vietato alle aziende americane vendere tecnologia, compresa Google. E sapete che per Huawei, soprattutto negli ultimi smartphone, c'è questo problema di non poter installare applicazioni. E anche se c'è questa esenzione per ulteriori 45 giorni, per il momento negli ultimi telefoni di Huawei i servizi e le app di Google non sono presenti, perché appunto non è che puoi fare un telefono sapendo che poi fra forse 45 giorni non puoi più, devi fare disinstallare quelle applicazioni. Poi vediamo, perché fino adesso l'amministrazione Trump ha sempre esentato ha concesso varie volte l'esenzione, quindi vedremo poi fra 45 giorni che cosa succederà. Google intanto ha annunciato di avere completato l'acquisizione di Locker Data Sciences, che è una società che si occupa di analisi di grandi quantità di dati e servirà per l'espansione dei propri servizi di cloud. Un'operazione annunciata mesi fa che è valutata 2,6 miliardi, quindi una bella cifra è stata pagata questa Locker Data Sciences. Facebook ha firmato un accordo con l'agenzia di stampa Reuters per potenziare le procedure e i sistemi di controllo della veridicità delle notizie negli Stati Uniti. Facebook è da tempo sotto pressione, ancor di più con l'avvicinarsi delle elezioni. Da più parti si chiede una maggiore attenzione alla diffusione delle cosiddette fake news e in molti chiedono a Facebook, così come ad altre società, ma ovviamente la potenza di fuoco di Facebook è molto importante, chiedono a Facebook di essere più attenta e vigile e togliere dalla rete le notizie false. Facebook, che si prepara ad entrare nel mercato europeo del cosiddetto dating, cioè degli incontri online fra persone, ma il servizio, che doveva essere lanciato questa settimana, è stato rinviato perché il garante per la privacy irlandese, ricordiamo che Facebook come altre società tecnologiche ha sede in Irlanda, allora il garante per la privacy ha sollevato più di un dubbio. Il principale è che gli hanno detto praticamente 10 giorni prima, il 3 febbraio, che il 13 febbraio avrebbero lanciato questo servizio, e questi del garante hanno detto: vabbè, ma solo 10 giorni prima ce lo dite, ma siete matti? E quindi hanno detto: no, non potete lanciare nulla. Facebook festeggia intanto un traguardo raggiunto da WhatsApp che ha superato per la prima volta i 2 miliardi di utenti. E tra i social network, se WhatsApp può essere definito social network, solo Facebook ha più di 2 miliardi di utenti. Un'ultima notizia riguarda l'israeliana Innoviz, che produce sensori per la guida autonoma, sarà il fornitore della cinese Shaanxi Heavy Duty Automobile, che schiererà 600 camion a guida autonoma in uno dei più importanti porti della Cina. Questa è la notizia, alla quale però mancano alcuni particolari che mi sembravano importanti, ma io non li ho trovati. Non si sa quando questi 600 camion a guida autonoma verranno messi in pista e non si sa il porto. Comunque, insomma, la notizia è sicuramente interessante. Tutto il mondo che a vario titolo, ed è sempre più vasto questo mondo, a vario titolo ha a che fare con le tecnologie mobile, quindi telefonia mobile, ma tutto quello che si connette ormai alle antenne 3G, 4G e in prospettiva 5G era pronto per incontrarsi, per ascoltare e vedere le novità al Mobile World Congress di Barcellona, previsto a fine febbraio a partire dal 24, ma solitamente poi nel weekend precedente, quindi 22-23 sono previsti annunci. Tutto ciò è stato cancellato, non rinviato, ma cancellato a causa dei timori di diffusione del coronavirus. Diciamo che le autorità spagnole avevano detto no, si può fare tutto ok, nessun problema, ma la GSMA, cioè l'associazione che rappresenta più di 700 operatori della telefonia mobile, ha deciso invece di cancellare sotto una pressione molto forte di tante aziende che nelle ultime settimane avevano annunciato di non partecipare. Quindi se i più grandi nomi, e parliamo appunto dei più grandi nomi della telefonia, forse a parte i cinesi, che invece avevano confermato la propria presenza, moltissime società avevano annunciato che non ci sarebbero state. Allora, tutto ciò ha delle conseguenze, potrà avere delle conseguenze sul mercato mobile. Saluto Carolina Milanesi, analista a Creative Strategies in Silicon Valley. Carolina, bentornata 2024. Grazie. Avremmo dovuto vederci a Barcellona, quindi anche i nostri incontri sono stati cancellati, ma secondo te che tipo di conseguenze potrà avere questa cancellazione di questo importante, insomma il più importante appuntamento annuale per tutto il mondo mobile? Ma la prima conseguenza è che non ci vediamo, però certo, al di là di quello, sì. Per i consumatori è il non c'è un impatto immediato, nel senso che i prodotti che sarebbero stati presentati a Mobile World Congress verranno presentati in altri modi. C'è chi farà degli eventi, diciamo le brand più grandi faranno degli eventi loro, sia online o anche dal vivo. Credo che dal vivo in generale sarà più difficile, intanto che continuiamo a capire come questo coronavirus si diffonda. E quindi magari è più un discorso di meeting virtuali, lanci virtuali, usare social media in una maniera più forte che abbiamo visto nel passato. Dove c'è impatto è nell'industria, nonostante l'attenzione sempre data alle conferenze stampa, la realtà di Mobile World Congress è che ci sono tantissimi meeting a livello manageriale che vengono fatti tra i vari giocatori del mercato, e quindi tra gli operatori mobili e le aziende manifatturiere di telefoni, tra chi fa servizi e chi sviluppa applicazioni, le aziende di microchip e via dicendo. E quindi è questo che mancherà, questo network di meetings che poi continua a spingere l'industria avanti. E la grande domanda che tanti si stanno facendo al momento è se l'impatto di questa cancellazione avrà effettivamente poi una conseguenza per l'anno prossimo, cioè se riusciamo a mandare avanti l'industria, se riusciamo a lanciare i prodotti, se è show must go on e business as usual, non penso che magari l'anno prossimo tutti pensino di ritornare a Mobile World Congress. Quindi la domanda che secondo me è più interessante è questo, è vedere, cioè, cambia l'industria, stiamo pensando magari non spendere così tanti soldi, avere un impatto anche su tutte queste persone che volano e via dicendo, in futuro no. Certo che per Barcellona come città è un impatto enorme a livello di proprio finanziario. Sì, sicuramente, e questo ovviamente vale per tanti altri appuntamenti che ci saranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma bisognerà vedere appunto come evolverà la diffusione del virus. Samsung ha preceduto molte aziende che avrebbero fatto presentazioni durante il Mobile World Congress, presentando un paio di nuovi prodotti che in un caso arrivano proprio in questi giorni sul mercato, nell'altro caso arriveranno fra circa un mese, però sono prodotti pronti per il mercato, della serie Galaxy, i nuovi S20 in tre versioni, e un'altra novità che si inserisce nel nuovo trend dei telefoni con display pieghevole, il nuovo Z Flip. Verrebbe da dire, ma chiedo a te Carolina, se questo è effettivamente a questo punto un nuovo trend consolidato, solido, e quindi vedremo sempre più telefoni con display pieghevole, o rimarrà ancora una nicchia di mercato sulla quale per il momento si sono esibite Samsung, Huawei e Motorola. Per adesso siamo ancora agli inizi di sicuro, per due ragioni. Una, il prezzo. E quindi se guardi dal Fold e Huawei con il Mate X a oltre 2000 euro, a poi arrivare allo Z Flip che in America viene venduto a $1,380 e Motorola è a metà, intorno ai $1,500. Quindi questa è una prima cosa, il consumatore che guarda al prezzo, un prezzo che effettivamente è più per diciamo il senso di fashion e di trend, e quindi più per come è sviluppato il telefono come hardware che non necessariamente per le features del telefono, perché se prendiamo per esempio lo Z Flip è in realtà ha un'anima di un telefono che è più vicino all'S9 che non all'S20. E poi il costo viene giustificato dalle innovazioni che entrano in questo nuovo form factor, nel caso di Samsung il vetro pieghevole, che è la prima volta che lo vediamo, fino adesso abbiamo avuto plastica pieghevole. Quindi dipende un attimino da quello che vuole il consumatore. L'altra ragione, che è un po' legata a questo discorso dello schermo, per cui secondo me alcuni consumatori sono ancora un attimino reticenti, è il fatto di spendere $1,500 e poi avere una paura, diciamo, che questo telefono effettivamente non duri tanto quanto si sono abituati ad avere i telefoni del giorno d'oggi. La realtà è anche che se pensiamo a Gorilla Glass e anche a tutta la tecnologia che è stata messa nei telefoni che stiamo usando da anni, siamo diventati poco attenti a come viene usato il telefono, e quindi si ha un pochino più questa paura di rompere quello che abbiamo nelle mani. Sì, sicuramente questo è un aspetto importante. Ti faccio una domanda su i nuovi S20, che da un certo punto di vista potrebbero essere considerati il naturale upgrade, il naturale aggiornamento e miglioramento della serie S di Samsung, e quindi i nuovi top di gamma, ma senza novità scoppiettanti particolari, o non è così? No, ci sono è vero, cioè adesso non per Samsung solo, ma tutta l'industria sta continuando a migliorare passo per passo. Diciamo che questa volta per Samsung ci sono due punti importanti. Uno, che è la prima volta che vediamo una famiglia di prodotti di fascia alta tutti con 5G. Quindi questo è il primo passo. Il secondo è, per Samsung era un po' un problema loro di riuscire a, come percezione, farsi vedere alla pari o migliore di altri venditori dal punto di vista della fotocamera. E quindi molta attenzione allo zoom, molta attenzione al low light e poi video, quindi non soltanto per fotografie ma anche per video in 8K. Che poi alla fine al consumatore, diciamo, di massa magari non interessa, ma a early adopters, quindi quelli che vogliono, che seguono il passo della tecnologia, fa molta differenza. Dove effettivamente dovrebbe fare differenza per Samsung in mercati come l'Europa è riuscire a ricatturare del market share, quindi delle quote di mercato, da Huawei, che al momento sta continuando a vivere, diciamo, con prodotti che dal punto di vista di hardware sono dei bellissimi prodotti, ma purtroppo dal punto di vista, purtroppo per loro, dal punto di vista di software non hanno accesso ai servizi di Google, che non è soltanto per il servizio in se stesso, ma per il numero di applicazioni che dipendono da questi servizi. Quindi Huawei, che sta cercando di creare uno store indipendente per le applicazioni, potrebbero anche avere le applicazioni e hanno incominciato ad averne alcune, ma la realtà è che senza i servizi di Google queste applicazioni non funzionano come siamo abituati ad usarle su altri dispositivi. Molto chiaro. Come sempre grazie a Carolina Milanese per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto. Arrivederci. Più tardi parleremo di digitale terrestre con Gianfranco Giardina, parleremo anche dell'aggiornamento del cosiddetto compenso per copia privata e parleremo anche di riconoscimento facciale. È partito da pochi giorni un test che durerà fino a fine anno all'aeroporto di Milano Linate ed è una delle sperimentazioni, dei test più completi in Europa. Adesso parliamo di cyber security con un'indagine che è durata 6 mesi, condotta da Trend Micro, che ha creato una vera e propria fabbrica, almeno dal punto di vista digitale, e ne ho parlato con Gastone Nencini, che è country manager di Trend Micro in Italia. Ma sostanzialmente l'idea è stata quella di verificare attualmente la situazione degli attacchi nell'ambito dei sistemi SCADA ICS, quindi dei sistemi industriali, perché si sente parlare molto di attacchi, di infrastrutture critiche, ma noi ritenevamo che probabilmente questi attacchi vengono perpetrati anche nei confronti di piccole e medie aziende, per cui per capire cosa realmente succedeva, non essendoci poi una dichiarazione da parte di chi subisce l'attacco di quello che ha subito, abbiamo creato una fabbrica virtuale. Sostanzialmente abbiamo riprodotto in tutto e per tutto, dal sito web ai profili LinkedIn all'infrastruttura, una fabbrica digitale dove abbiamo simulato che all'interno c'erano dei robot, c'erano delle piattaforme di connessione per il controllo dei robot, ma il tutto era una cosa molto, cioè era virtuale, non esisteva nulla. E in 6 mesi che è stata messa in piedi questa infrastruttura, è stata lasciata esposta, così come sono esposte normalmente le aziende che utilizzano impianti industriali, e abbiamo riscontrato 39 attacchi e quindi oggi siamo in grado di capire come si muovono il cybercrimine che vuol fare questo tipo di attacco sulle fabbriche. Avete fatto un'attività trasformandola in fabbrica vera e propria, almeno dal punto di vista digitale, una trappola digitale, come spesso chi si occupa di cyber security, chi si occupa di difesa all'interno di questo settore fa, cioè molto spesso vengono fatte delle trappole per cercare di capire il comportamento degli hacker, giusto? Sì, diciamo, abbiamo utilizzato quello che è la tecnica dell'honeypot, quindi del sistema che cerca di attirare l'attenzione dei cybercriminali o degli hacker, e l'abbiamo un po' esteso e ampliato mettendoci all'interno una fabbrica virtuale che digitalmente esisteva. Chi la vedeva dal di fuori pensava di operare in una fabbrica dove erano presenti robot, dove erano presenti macchine SCADA, ICS, dove c'era l'interconnessione tra l'OT e l'IT, quindi anche avevamo simulato un CRM fasullo, abbiamo creato anche quello che è la parte esposta, cioè quindi tutti, ripeto, LinkedIn, sito web, c'era un indirizzo, tu potevi cercare, sembrava di lavorare con un'azienda, e in effetti dietro c'era questo sistema che raccoglieva dati, che però ci permette oggi di sapere un po' di più di come vengono attaccate anche le piccole e medie imprese nell'ambito dei sistemi industriali. Ti faccio una domanda su alcune novità che voi state commentando. Come spesso succede, molte aziende che si occupano di cyber security all'inizio dell'anno cercano un po' di individuare alcuni trend. Quali sono, secondo voi, ma secondo te, i trend tecnologici? Ovviamente stiamo parlando di novità, poi c'è tutta una lista lunghissima di attacchi che continuano ad essere simili o uguali a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Ma allora, sicuramente gli attacchi simili o uguali agli ultimi anni si stanno evolvendo su quello che sono le nuove piattaforme, i nuovi sistemi di fare, ad esempio, software, e i nuovi sistemi di infrastruttura che si stanno a utilizzare. Quindi, per la parte software, tutti i concetti di DevOps, dove oggi si sviluppano app in maniera molto rapida, veloce, perché il business ne richiede immediatamente. Pensate all'app, qualsiasi app che utilizzate nel telefono, probabilmente riceverete aggiornamenti molto frequenti di quest'app, e che quella stessa app però gira anche sul sito web, cioè non c'è più una distinzione tra l'app mobile e l'app e il sito web, ormai si riesce a fare tutto in maniera univoca, e quindi questo è uno dei settori su cui ci stiamo concentrando e riteniamo dove si andranno a concentrare anche i cybercriminali per fare attacchi. La parte cloud, perché il misconfiguration del cloud, quindi la non corretta configurazione del cloud, è un buon punto di attacco per chi fa il lavoro dall'altra parte rispetto al nostro, e poi quello che sono le vulnerabilità e l'aggiornamento dei sistemi, che purtroppo con l'aumentare delle, ripeto, delle app, delle piattaforme, pensiamo alla smart home, pensiamo alla smart city, pensiamo all'IoT, stiamo aprendo, io quelle che definisco sempre, maggiori finestrelle da cui qualche malintenzionato può entrare nella nostra casa. Ti cito un nome che mi ha colpito tra le previsioni che voi fate: deepfake, video che abbiamo commentato più volte, fasulli creati da sistemi di intelligenza artificiale. Che cosa c'entra questo con la cyber security? Ma noi vediamo che questo, crediamo che questo possa essere l'evoluzione di quello che è chiamato la BEC, cioè il business email compromise, o la CEO fraud, cioè la truffa del CEO. Oggi è uno dei sistemi che ancora per il cybercrime rende di più in tutto il mondo, anche l'Italia ne è stata colpita con casi abbastanza eclatanti. La truffa del CEO è quella che rende di più? Sì, è una truffa dell'amministratore delegato. È la truffa che rende, è quella che sta rendendo ai primi posti nelle classifiche dei cybercrime, appunto per essere quelli più efficaci, diciamo. Più efficace enumerativa. Allora, a questo punto però ti faccio ripetere e ricordare agli ascoltatori di cosa stiamo parlando. Cioè, uno cerca di far finta di essere l'amministratore delegato e far fare un versamento di soldi, grosso modo? Sì, all'incirca è così. Sostanzialmente viene studiata l'azienda, vengono targettizzate, quindi vengono individuate quelle aziende che stanno in un momento che devono acquistare un macchinario o devono fare un'acquisizione, cioè dove si stanno spostando molti soldi, si studiano i movimenti del CEO, quindi nel momento in cui il CEO dovesse stare in volo da una parte all'altra, nell'orario in cui deve prendere questo volo arriva una mail al CFO, quindi al capo finanziario dell'azienda, e gli dice: guarda, ho trovato l'accordo con la controparte, versagli subito questi soldi perché almeno così blocchiamo. E a quel punto che succede? Il CFO si vede arrivare la mail dal CEO, scritta in maniera perfetta, corretta e tutto, sa che il CFO, il CEO o chi per lui, insomma, il proprietario dell'azienda, sta prendendo un aereo, prova a chiamarlo, non lo trova, e nel dubbio fa il versamento. E queste sono tecniche di social engineering, c'è tutto quello che si chiama gathering information. Ecco, questa cosa la stanno utilizzando, potranno utilizzarla col deepfake, perché potranno addirittura intercettare delle videoconferenze prima e cambiare, quindi vedere proprio la faccia di viso del CEO che dice al CFO: guarda, paga perché ho trovato l'accordo. E lì bisogna, diventa ancora più complicato capirlo. Certo, che tu dici, se già è credibile una email, figuriamoci un video. Esatto, infatti è l'evoluzione, perché logicamente adesso sono state sviluppate delle tecniche tipo il Vrij Styling DNA che abbiamo noi, che analizza la scrittura della mail, la punteggiatura, come vengono usate le parole, le preposizioni, le congiunzioni e tutto, perché quello dà uno stile di scrittura che è univoco per ogni persona. E adesso dovremo iniziare a lavorare sul movimento dell'occhio, come muove, come parla, perché il deepfake è in grado di riprodurre questo tipo di situazioni e quindi rendere ancora più credibile la truffa. Ti faccio un'ultima domanda, la faccio un po' a tutti, a te non ricordo di averla mai fatta. Mi dici come ti comporti con la gestione delle tue password, delle tue user ID? Tu come ti comporti? No, allora, questo diciamo è un po' per il lavoro che faccio, quindi ce l'ho nel DNA, tornando al discorso del DNA. Io cambio regolarmente le password, non uso mai la stessa password. Per ricordarmi la password cerco di ricordarmi una frase e utilizzo le iniziali di ogni singola parola, quindi diventano frasi abbastanza complesse con numeri e caratteri particolari. Differenzio, mi sono creato un mio scheda mentale, per cui se ho informazioni riservate uso un modello di password dove so che ci stanno determinate situazioni nella stringa, se ho cose un po' più frivole quindi uso un altro modello di password che mi risulta più semplice, però le cambio in continuazione. E poi dove storare le password non me le scrivo nel caso, ma utilizzo dei sistemi che usano dei sistemi criptati, per cui la password è criptata all'interno di questi vault che possono trovarsi sul cloud. Ma infatti ho anche a disposizione le password in qualsiasi strumento io utilizzi, non me la ricordo, posso andare lì a aprirlo e vederlo, però ci vado solo io e poi ci quindi vado. Password manager? Sistemi tipo password manager, sì. Così come sblocca il telefonino, il nostro volto può funzionare da lascia passare per imbarcarsi su un aereo. Allora, questa non è una novità assoluta, accade già in alcuni scali del mondo, da pochi giorni a Milano Linate, dove la sperimentazione, che durerà fino al 31 dicembre, è fra le più complete d'Europa per una serie di motivi che adesso spieghiamo. Ricordo che a Roma esiste già la possibilità di imbarcarsi sui voli per Amsterdam con il riconoscimento facciale. In molti aeroporti del mondo dove, diciamo in alcuni aeroporti del mondo dove queste tecnologie sono in test, in sperimentazione, tendenzialmente c'è una compagnia aerea che fa da capofila per questo tipo di tecnologia. Là il test a Milano Linate di SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti milanesi, è più esteso e vedremo tra poco il motivo. Devo anche dire che probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori saranno arrivati in un aeroporto italiano provenendo da un'area extra Schengen, quindi fuori dall'Unione Europea, o meglio all'interno dell'Unione Europea c'era la Gran Bretagna fino a poco fa che era extra Schengen, adesso è decisamente extra Schengen, è che in quei casi c'è un sistema di riconoscimento facciale che è gestito dalla polizia e quindi è basato solo sul passaporto ed è una cosa diversa rispetto all'imbarco con un'associazione che viene fatta con la carta d'imbarco. Comunque ci siamo fatti spiegare tutto, ho fatto la prova, il test questa settimana, è stato inaugurato questo sistema e mi sono fatto raccontare tutto da Alessandro Fidato, che è il Chief Operating Officer di SEA, che ricordo appunto è la società che gestisce l'aeroporto di Linate e di Malpensa. Questo servizio è un servizio che sarà in test, noi diciamo fino alla fine dell'anno, in realtà noi siamo ottimisti, riteniamo di già a marzo di poter fare una prima valutazione, perché abbiamo già tutta una serie di KPI che stiamo monitorando, se ci convincerà lo estenderemo non soltanto come ora al volo Linate-Fiumicino con AZ, ma eventualmente valuteremo di estenderlo anche ad altri voli, ad altre compagnie. La caratteristica di questo sistema è quello, diciamo, che ci permette di abbattere tutti quei gate che si incontrano all'interno di un aeroporto. Quando si accede in un terminal abbiamo tutta una serie di gate ai check-in, ai controlli di sicurezza, ai gate. Quindi l'obiettivo è stato quello di eliminare tutti questi gate di controllo, di questi touch point, e di rendere quanto più possibile frictionless o seamless, quindi fluida il percorso del passeggero fino dal check-in fino all'imbarco. Quindi eliminare tutti i momenti in cui si fa la coda, fondamentalmente. Bravissimo, esattamente così. Uno degli obiettivi principali di questa tecnologia e dell'implementazione di tutte le tecnologie innovative che in sé abbiamo deciso proprio di accelerare l'implementazione di tutte queste tecnologie, proprio deriva dal fatto che noi vogliamo migliorare l'esperienza del passeggero attraverso la tecnologia, attraverso in particolare tutta quella tecnologia di automazione, e in particolare attraverso dei prodotti self-service che permettono al passeggero di fare in maniera autonoma tutte le procedure in modo da sentirsi completamente a suo agio. Bene, siamo in un aeroporto, quindi in questo momento c'è uno dei tanti annunci che ci sono nell'aeroporto. Ricapitolando molto semplicemente, molto brevemente, uno fa una breve registrazione che può essere fatta o attraverso lo smartphone, quindi anche prima di arrivare all'aeroporto, oppure in aeroporto, dove viene associata la carta d'imbarco con il mio documento e alla mia faccia, ovviamente, che viene ovviamente confermata dal mio documento, che può essere carta d'identità elettronica oppure passaporto. Ecco, da quel momento che cosa succede? La cosa che lei raccontava era la procedura di enrollment, come l'abbiamo chiamata, cioè noi intercettiamo oggi, prima dei controlli di sicurezza, i passeggeri, li invitiamo, quelli che sono eleggibili, cioè quelli che, quindi maggiorenni, che fanno la tratta Milano-Roma, ripetiamo, che sono quelli che oggi possono usufruire del fast track. Questi passeggeri vengono intercettati, vengono invitati se sono interessati a fare questo enrollment, e quindi la cosa che appunto descriveva lei. Creato questo template attraverso la tecnologia proprio del riconoscimento biometrico facciale, quindi associato alla carta d'imbarco la carta d'identità e il proprio viso, a quel punto uno si presenta al gate dedicato, perché ci saranno dei percorsi dedicati che si chiameranno face boarding, quindi sono indicati, ben segnalati, per cui il passeggero avrà un passaggio dedicato, si presenterà in quel punto, si farà inquadrare dalla telecamera, 3 secondi, viene riconosciuto, quindi il passeggero, senza tirar fuori carta d'identità, documento eccetera, passa. Al varco di sicurezza, anche là non deve ripresentare la carta d'imbarco perché c'è una telecamera, anche là, che riconosce il passeggero. A quel punto si accende una lucina verde, il passeggero va avanti, l'addetto verifica quindi che il passeggero già è stato riconosciuto, e quindi il passeggero anche là va fluido e passa ai varchi di sicurezza. Stessa cosa al gate, c'è un varco dedicato, un varco automatizzato con la telecamera che fa il riconoscimento biometrico facciale. Il passeggero non si mette in fila ma va direttamente al gate nel momento dell'imbarco, e in 3-4 secondi passa e si può imbarcare. Quindi è assolutamente un taglia file, elimina code, rende fluido e veloce e quindi gradevole il percorso del passeggero all'interno del terminal. Quindi un servizio particolarmente apprezzato, e diciamo il nostro target è quello del passeggero frequent flyer, ed è per questo che lo stiamo sperimentando a Linate. Linate è un aeroporto storicamente con una percentuale di frequent flyer elevatissima. Già in pochi giorni ci sono stati passeggeri che hanno già fatto il passaggio 3 volte, quindi quasi gente che vola più volte alla settimana. Abbiamo detto che c'è una fase di registrazione in cui uno dà il consenso. A proposito di dati biometrici, quindi la mia faccia che voi tenete in archivio, che cosa ci si può fare con questi dati? Cioè, fate anche degli studi su come le persone si comportano, eccetera? Assolutamente no, chiariamo subito. Allora, questo è un sistema che ha passato tutti gli step previsti dalla normativa, quindi dalla normativa europea, parlo del GDPR. Abbiamo dovuto fare un assessment sul rischio legato alla privacy di questo progetto, che abbiamo sottoposto al garante per la privacy, quindi abbiamo seguito tutto l'iter europeo. È un sistema che è assolutamente sicuro, perché non lo chiarisco bene, non c'è nessuna conservazione di dati dati in chiaro, cioè la fotografia che viene fatta nel momento dell'enrollment è una fotografia che poi attraverso questo algoritmo biometrico viene tradotta in un template cosiddetto, cioè una serie di numeri, e poi immediatamente, una volta fatto questo, la fotografia viene cancellata e questo template viene conservato in un database specifico. L'altra cosa importantissima del sistema che abbiamo progettato e che ha avuto il favore anche del garante è stato il fatto che invece tutti i documenti della carta d'identità elettronica o del passaporto elettronico, quindi anche là sono documenti diciamo molto delicati che vanno trattati con attenzione, quelli sono anche quelli sono tradotti attraverso un algoritmo in dei numeri, quindi vengono crittografati e questi dati vengono conservati in un server diverso da quello del template del biometrico facciale. Quindi abbiamo due sistemi assolutamente diversi e quindi il sistema, possiamo dire, è estremamente sicuro. Le compagnie aeree devono essere in qualche modo abilitate questi sistemi, perché voi alla fine, almeno quando il passeggero si imbarca, il vostro sistema deve parlare con i sistemi di bordo della compagnia aerea, cioè deve associare il mio nome, il mio cognome con un posto che è assegnato sull'aereo. Quindi tutte le compagnie sono abilitate o no? Allora, il punto di forza di questo sistema è anche il fatto che è compatibile con tutti i DCS di tutte le compagnie. Quindi noi oggi stiamo facendo un test con Alitalia, ma in funzione di poi come andrà, se sarà di gradimento dei nostri passeggeri, noi siamo pronti ad estenderle a qualsiasi altra compagnia che fosse interessata a questo servizio, quindi all'utilizzo di questa tecnologia. L'altro punto di forza, volevo dire, rispetto a questo sistema che noi abbiamo lanciato all'INATE, è che è l'unico e il primo in Italia che ha due caratteristiche in particolare: è completamente self-service e ha una caratteristica che permette, se il passeggero dà il consenso, di conservare i dati che vengono registrati durante l'enrollment, i dati del documento, i dati biometrici, fino ad un anno, quindi non soltanto un giorno ma fino a un massimo di un anno se viene dato il consenso all'atto dell'enrollment. L'altro punto di forza di questo sistema è che abbiamo anche sviluppato con il fornitore un'app che viene scaricata oggi è già disponibile sul sistema Android, a giorni sarà disponibile anche sul sistema iOS di Apple. Praticamente con questa app sarà possibile da casa o anche quando si sta in taxi, si sta andando verso l'aeroporto, caricare, una volta fatto l'enrollment in aeroporto, caricare le altre carte d'imbarco. Quindi di fatto, una volta al chiosco l'enrollment, il caricamento delle carte d'imbarco degli altri viaggi si può fare sia nel chiosco in aeroporto, ma si può fare anche attraverso l'app da casa tranquillamente. Alcuni ascoltatori potrebbero pensare: ma io questa cosa l'ho già fatta quando arrivo dagli Stati Uniti in alcuni aeroporti italiani, oppure quando arrivo dalla Gran Bretagna, cioè dalle aree extra Schengen. Questo sistema è diverso dal sistema di riconoscimento dei passaporti quando si passa la frontiera, giusto? È diverso, ma sfrutta in parte la stessa tecnologia, i cosiddetti gate o e-boarding, cioè i controlli passaporti automatizzati, che sono stati sviluppati anche da SEA e che sono attivi sia a Malpensa che a Linate. È un sistema che sfrutta sempre la tecnologia biometrica, ma la differenza, per esempio, la scannerizzazione, la scansione della carta d'identità o del passaporto viene fatto nel nostro sistema face boarding, può essere fatto su tutti e due i documenti, l'importante è che sia un documento elettronico. Invece sul controllo passaporto può essere fatto solo sul documento passaporto, viene anche là verificato la lettura, viene attraverso la lettura del chip, viene verificata la validità del passaporto, viene anche verificata la filigrana, tutti i colori del passaporto, quindi per verificare se è stato contraffatto. La differenza è che nel controllo passaporti automatizzato c'è un collegamento diretto con i sistemi della Polizia di Stato e con le banche dati europee dell'Interpol, per cui se un passeggero è ricercato, in quel caso non viene dato il consenso all'apertura delle porte automatizzate e viene il poliziotto che intercetta il passeggero e fa un ulteriore approfondimento. Noi, il nostro sistema del FaceBoarding non è collegato con i sistemi della Polizia di Stato, questo ci tengo a precisarlo, ma sicuramente è un sistema che innalza i livelli di sicurezza in aeroporto, perché oggi attraverso questo sistema noi abbiamo la capacità di verificare, di intercettare eventuali documenti contraffatti, perché riusciamo a verificare se il chip è stato contraffatto. Cosa che da un controllo al gate di un addetto non è difficile accorgersi effettivamente se un documento è falso o meno. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete contattarmi scrivendo a 2024, quindi in cifra 2024 e radio24.it. Mi trovate anche su Facebook, LinkedIn o Twitter e vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile, è disponibile in versione super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale sul nostro sito, sulla nostra applicazione oppure sulle tante piattaforme audio, le principali ovviamente, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Sono in etere online, o meglio, on air, si dice, nel mondo televisivo, i canali 100 e 200 del digitale terrestre, per farci che cosa? Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale di Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati ascoltatori. Prima di parlare del canale 100 e del canale 200, che sono uguali, giusto, sul digitale terrestre? Assolutamente identici, uno è diffuso da Rai, l'altro è diffuso da Mediaset, ma sono due canali test identici. Sul 100 e sul 200 prima cosa c'era? Niente? Nulla. Ah, pensa. Nulla, solo in alcune aree c'erano alcuni canali privati, diciamo così, che si erano autoproclamati proprietari del 100 e del 200 e si erano posizionati lì, sono stati fatti spostare. Prima volevo accennare ad un decreto, normalmente a 2024 non parliamo di decreti, ma voi su dday.it avete siete tra i pochi ad avere pubblicato la bozza del decreto che aggiornerà il compenso per coppia privata. Ricordiamo che cos'è, che è una cosa che ci dà abbastanza, almeno a me personalmente dà un po' fastidio. È un prelievo che viene fatto alla fonte da chi importa o produce supporti o prodotti assoggettati, prodotti in grado di registrare o di memorizzare, tipicamente le memorie, gli hard disk, anche gli smartphone, e quindi questo compenso che viene raccolto dalla SIAE e poi ridistribuito a autori, editori e altre associazioni di categorie, diciamo secondo un principio abbastanza oscuri anche, ecco, questo balzello, chiamiamolo così, viene prelevato alla fonte e sta a ricompensare gli autori, editori del danno subito dalle copie per uso privato che gli utenti fanno. Per copia per uso privato si intende una copia che un utente fa per se stesso, quindi non per darla a un amico, di un materiale, di un contenuto legittimamente posseduto, quindi che ha già comperato. Tipicamente la situazione in cui compravo un CD e facevo una copia su cassetta per metterla nell'autoradio. Ecco, ho già pronunciato delle cose che ci proiettano all'indietro di 10, 15, 20 anni e nel mondo, nell'era dello streaming, parlare di copia privata sembrerebbe assolutamente superato. Invece sta arrivando l'aggiornamento di questi compensi e non è un aggiornamento verso il basso. Questo purtroppo, però ovviamente tu hai citato il danno subito, io direi il presunto oppure inesistente danno subito. Pensate che io sono abbonato ad un servizio di streaming musicale abbastanza noto e famoso. Se compro uno smartphone o comunque nello smartphone che ho acquistato, ho pagato questo diritto per coppia privata per ricompensare per un presunto danno e io pago attualmente 5,20 euro. Pazzesco. E la cosa, pensate che questo servizio di streaming che io ho posso utilizzarlo anche sul televisore. Questa cosa qua si paga anche sul televisore, vero? Si paga tutti i televisori che hanno la funzione PVR, quindi con la possibilità di videoregistrare i programmi. Ovviamente sono programmi che poi non possono uscire dall'hard disk sul quale vengono video registrati e possono essere riprodotti solo su quel TV, ma malgrado ciò paga sia il TV 4 euro, che è una tariffa che è stata confermata anche per il futuro, e paga anche poi l'hard disk che devo usare per registrare. Esatto. Quindi in pratica si paga due volte. Che vergogna, proprio questa è proprio una cosa vergognosa, perché da un certo punto di vista, quando noi, è vero che ci sono delle altre distorsioni del mercato, ma quando noi commentiamo prodotti tecnologici che costano di più sul nostro mercato, un pezzettino dell'extra costo è dovuto anche a questa cosa, che non esiste in quasi nessun altro paese. Beh, esiste, pochi paesi. No, esiste in altri paesi, esiste anche con alcune volte con costi maggiori. Non esiste per esempio in UK, dove non è riconosciuto il diritto di copia privata, quindi non si può fare legittimamente una copia privata, ma oramai, devo dire la verità, è anche difficile fare una copia privata, perché attenzione, non stiamo parlando di pirateria, questo bisogna essere chiaro, sì, la pirateria è tutt'altro, quindi non è una copia per uso privato. Se uno fa un pirata commette un qualcosa di illegittimo a prescindere, giusto, e giusto. Non è che il compenso, il pagamento del compenso legittimi la pirateria, però ovviamente mi piacerebbe essere in condizione di poter esercitare il diritto per il quale comunque indirettamente pago. Sì, esatto. E paghiamo tutti in questo momento in Italia tra i 120 e 130 milioni di euro all'anno, quindi questa è la bolletta della copia privata. È una bolletta che resterà tale anche perché arrivano anche nuove categorie. Tra le categorie di nuova introduzione nella tabella ministeriale ci sono anche gli smartwatch adesso. Pensa a te. E quindi anche Assoro Logi si è arrabbiata. E c'hanno ragione. Per questo. Noi confermiamo questa indignazione, almeno personale, rispetto a questa, che è vero, è tutto basato su una legge che mi sembra anacronistica. Diciamo che la mia indignazione sul tema oramai è maggiorenne, quindi con le sue gambe. Tra l'altro sono 5 anni che non veniva aggiornata. Il ministro Franceschini, che era quello l'ultimo che l'aveva aggiornata, si vede che qualcuno lo ha aspettato per fare quest'altro aggiornamento, perché è tornato al dicastero del Ministero proprio della Cultura. Perfetto. E ricordiamo che cioè l'aggiornamento va fatto per legge, ma può essere anche un aggiornamento verso il basso. Invece, caso strano, è sempre al rialzo. No, c'è qualcosa che si dimezza. Ah, sì, c'è cose che non vendono più. Le VHS, i CDR, i DVD registrabili e anche i Blu-ray registrabili. Pensa per chi riesce a trovarli sul mercato, ovviamente questi vengono dimezzati. Sì. Perché i parrucconi che fanno queste tabelle sono tutt'altro che fuori dal mondo, cioè sanno benissimo che abbassi cose che non si vendono più e aumenti cose che si vendono. Ci sono esimi giuristi molto realisti che dicono che che il compenso per copia privata nel 2020 non avrebbe motivo di esistere dal punto di vista concreto e pratico, però bisogna pur pensare che queste provvidenze al mercato, alle industrie della cultura, devono pure arrivare in qualche modo, perché oramai sottrarle in questo momento significherebbe levare 120 milioni a questi operatori e il mercato degli operatori non può permetterselo. Sentire dei giuristi che dicono cose di questo tipo effettivamente fa tremare i polsi e magari fa anche autodistruggere qualche tomo di diritto costituzionale, eccetera. Dunque, torniamo al digitale terrestre. Sì. Comunque, no, ricordo che su dday.it avete pubblicato tutte le tabelle nuove, insomma, se uno si vuole documentare e indignare. Sì, per attenzione, non utilizzare altre parole. È una bozza sottoposta adesso a una discussione tra gli operatori che si terrà il 20 di febbraio e poi ci sarà la promulgazione del decreto, si pensa in maniera abbastanza simile se non totalmente identica alla bozza di decreto che è circolata in queste ore. Sì. Canali 100 e 200 del digitale terrestre, allora se voi fate con il vostro televisore la risintonizzazione dei canali, potreste sintonizzare il canale 100 e il 200, ma potreste anche non riuscire, cioè il vostro televisore potrebbe anche non riuscire a sintonizzarli, giusto? Sì, diciamo che anzi, la stragrande maggioranza dei TV rifà la sintonia automaticamente, quindi probabilmente qualcuno si è trovato il canale 100 anche senza sapere che cosa fosse, qualcun altro invece è andato proprio a cercare perché è circolata la notizia in queste settimane della andata in onda di questi canali che servono per verificare se il proprio TV è già compatibile col massimo livello di trasmissioni che sarà previsto dopo il prossimo switch off di cui abbiamo parlato diverse volte e quindi dopo il 30 di giugno 2022. E questo perché? Perché è bene sapere se il proprio TV o i propri TV di casa sono già compatibili per smettere di preoccuparsi rispetto a un cambio di TV o l'aggiunta di un decoder, oppure per incominciare a guardarsi attorno, cosa che è bene fare sin da subito. Perché se arriviamo troppo sotto data, quindi troppo vicino alle scadenze o switch off che poi magari ricordiamo, dopodiché a quel punto ci sarà carenza di prodotti, i prezzi sicuramente non saranno scontati proprio per questo motivo e di conseguenza si avrà meno scelta e probabilmente anche meno risparmio. Quindi incominciare a muoversi in anticipo è veramente un buon consiglio. Sì, questo è veramente una cosa importante, un consiglio assolutamente importante. Perché altrimenti uno potrebbe trovarsi in un momento in cui o non ci sono i prodotti o costano troppo e quindi dover rimandare questa scelta e rimanere in un limbo, ricordiamo in che periodo? Allora, il primo passo è il primo settembre del 2021, data in cui si spegneranno tutte le trasmissioni MPEG 2, quindi codificate in MPEG 2, che sono tutte quelle in standard definition. Lì tutti i TV che non sono HD smetteranno di visualizzare il digitale terrestre e quindi una prima quota parte di TV andrà a nero. Si stima una decina di milioni di schermi in tutta Italia, tenuto conto di tutto, e anche per esempio degli hotel, delle carceri, delle comunità, di un sacco di posti che hanno TV magari anche un po' datati, ma io penso anche alle seconde case, alle camerette, alle cucine dove ci sono TV anche un po' più vecchi, o i decoder sono quasi anche, un sacco di hotel, un sacco di hotel. Sono degli hotel con delle TV magari bellissime, con delle TV che fanno un po' paura. Beh, ogni tanto si incontra anche qualche tubo catodico. Quindi questa è la prima scadenza. Pochi mesi dopo, tra il 21 e il 30 giugno del 2022, si spegne invece la trasmissione, lo standard DVB-T, che è il trasporto del segnale. Si passa al DVB-T2, che semplicemente ottimizza meglio lo spettro, quindi nella stessa frequenza ci stanno più canali, ma ha un piccolo difetto: non è compatibile con i TV che non siano DVB-T2. In più lì partirà anche che cosa? La possibilità, non l'obbligo, ma la possibilità per le emittenti di trasmettere con un codec, quindi con una codifica ancora più evoluta che permette di comprimere ancora meglio il segnale, che è proprio questo HEVC Main 10. Questa sigla orrenda, però è proprio quella che si trova sui canali test. Cioè i canali test 100 e 200 riportano un cartello blu con un quadrato bianco con scritto in mezzo test HEVC Main 10. Questo significa che chi riesce a vedere quel canale ha un TV che è già pronto per il massimo livello di trasmissioni che ci sarà dopo il giugno del 2022. Può anche darsi che TV non compatibili con questo sistema continuino a vedere qualche canale dopo il 2022, ma presto diventeranno obsoleti. Quindi quello, diciamo, è uno spartiacque non banale. Quindi se uno sintonizza, sta tranquillo. Sì, assolutamente sì. Quindi i due comportamenti attesi sono: al canale 100 o al canale 200 o a entrambi. Io vedo il cartello, se vedo il cartello, audio non ce n'è, si vede soltanto il cartello. A quel punto il TV è compatibile, è già pronto, non c'è bisogno di fare. È impossibile che io abbia un televisore T1, quindi che non abbia il decoder per il T2 che riesce a sintonizzare quei cartelli. Allora, i cartelli sono trasmessi in maniera un po' strana in DVB-T e non in DVB-T2. Sì, questo non perché ancora. Non c'è ancora una frequenza DVB-T2 diffusa su tutto il territorio nazionale. Però non importa, perché la codifica HEVC, quella su cui è codificato questo segnale, è successiva all'introduzione del DVB-T2. Okay, quindi perfetto. Tutti i TV HEVC implicitamente sono anche DVB-T2. Benissimo, quindi chi lo vede sta è contento, può dire ai propri amici: guardate che io sono a posto. Se invece non lo vedi, allora i casi sono che non lo vedi proprio o lo vedi male, lo vedi nero, Nella stragrande maggioranza c'è qualche piccolo caso riportato in letteratura, così, di canale sintonizzato che si vede nero, ma in larga maggioranza quello che succede, il comportamento atteso, è che il canale non viene proprio sintonizzato. Non lo riesci neanche a vedere. No, non si io vado sul 100, schiaccio 100 e mi dice canale non esistente, cambia a secondo del modello di TV il messaggio, ma canale non disponibile, canale non esistente, e il televisore resta sul canale sul quale è. Ecco, questo è il caso in cui è inutile riprovare una seconda volta la sintonia. È proprio così che funziona, non è che non ha trovato il canale. Il canale non viene sintonizzato perché il TV ritiene che quel canale non sia compatibile. E quindi bisogna preoccuparsi. C'è, per essere totalmente corretti, come sempre siamo 2024, a costo di rubare un minuto in più, ci sono dei falsi positivi. Ci sono un certo numero, non certo maggioritario, ma non da escludersi, di casi di TV che saranno compatibili, ma che per altri motivi in questo momento non riescono a sintonizzare quel canale. La spiegazione è presto fatta. Il canale è stato messo in onda con un descrittore, quindi con un codice che definisce che tipo di canale è, assolutamente corretto dal punto di vista della grammatica, dell'ortografia televisiva, sì, diciamo così, sì. Che quindi dice che è un canale HEVC main 10. Cioè lui si presenta in etere con questa descrizione. Quindi perfetto. Un TV che cosa fa? La prima cosa, trova quel canale, legge il descrittore, dice: io sono compatibile con questo descrittore. Se ritiene di non esserlo, non lo sintonizza. Sì. Questo perché un TV non sintonizza i canali che poi si vedono neri, no? Certo. Ecco, ci sono dei TV e dei decoder che hanno la tabella dei descrittori che non è ancora completamente aggiornata, perché non ci sono canali in onda in questo formato al momento. Quindi funzionano benissimo, saranno compatibili con l'HEVC main 10, ma omettono di sintonizzare il canale. Se il canale fosse stato invece mandato in onda con un descrittore generico, generic video, buono per tutti, tutti i TV l'avrebbero sintonizzato, e avrebbe chi vedeva nero allora era certo di non essere compatibile. Chi vedeva invece il cartello sapeva che il TV era potenzialmente compatibile, ma poi arriva un canale, diciamo, grammaticalmente corretto col suo descrittore preciso e non lo vedi. Quindi è bene far così, in modo tale che i produttori abbiano tempo e modo di aggiornare il firmware di questi TV. Quindi, non si vede il cartello, bisogna necessariamente fare un supplemento di indagine. Ok, quindi non disperare, arrivare però, subito alla conclusione: no, io non lo vedo, quindi il mio TV è da buttare. Certo è che TV precedenti al 2015, 2016, che non vedono il canale, che il sospetto è forte e posso dire che il 98% di quelli che non ricevono lo schermo, che non ricevono il canale test, non hanno un TV compatibile. C'è questa alea del 2% sul quale insomma bisogna andare ad approfondire. Ma faccio un esempio: i decoder SkyQ, che pur saranno compatibili perché sono HEVC main 10, in questo momento non lo sintonizzano perché non è caricato il descrittore corretto. Sky ha promesso che per quando ci sarà lo switch off, SkyQ sarà compatibile. Ok, e questo supplemento di indagine, quindi diciamo, se uno non lo sintonizza proprio e ha un TV un po' vecchio, precedente al 2015, insomma, le speranze sono molto poche, perché il codec HEVC è abbastanza nuovo, e soprattutto la codifica a 10 bit, che è questo main 10, non è stata introdotta sin dall'inizio, e quindi è uno standard che è stato definito nella sua versione attuale a fine 2017, direi. E quindi insomma è difficile che sia già integrato in TV precedenti, se non i grandi top di gamma che magari hanno delle elettroniche più evolute. Certo, per questa minoranza Il manuale di solito non è d'aiuto. Il call center delle aziende di solito non è d'aiuto. Certo. E quindi è un po' complicato al momento, no? Quindi bisogna aspettare, aspettare un pochino. Diciamo, se non si vede il canale e il TV è datato, come abbiamo detto c'è prima, poco da aspettare. Sui decoder, sicuramente tutti i decoder, quelli che escono solo con la SCART, non sono compatibili, non lo saranno mai, probabilmente non sono compatibili neanche col primo switch off, quello del 2021. Quindi già andranno adeguati lì. Tutti i TV che non sono HD sicuramente andranno adeguati. Certo. E comunque, parliamoci chiaro, c'è una trentina di milioni di TV in Italia che in questo momento non saranno adeguati rispetto al DVB-T2 HEVC main 10. Sì. Quindi stiamo parlando di una cosa molto rilevante. Ecco, ripetiamo, perché questo è un messaggio importante, non lo facciamo per fare un favore al mercato non ce ne frega, no, proprio niente, frega, no. Lo facciamo per i consumatori, cioè se la vostra idea, ad esempio il mio televisore non sintonizza quei canali, però io rimando l'acquisto eventuale perché dico, ma io guardo o contenuti in streaming o utilizzo un decoder come può essere Sky Q, eccetera. Il decoder è già una soluzione, sì, sì, esatto, a patto soluzione. Di avere un decoder esterno che uno non venga noia il fatto di avere un altro apparecchio, ecco, con un decoder risolvi il problema. Risolvi il problema, esatto. Ecco, però laddove uno fate queste indagini che con i canali 100 e 200, come vi abbiamo spiegato, capisce che deve cambiare il TV ed è preparato perché dice no, io voglio comunque un televisore, ricordiamo la cosa importante è preparatevi per tempo, perché potreste arrivare nel, che ne so, autunno-inverno 2021, che poi non è tanto in là, che la situazione, cioè sul mercato non ci sono 30 milioni di televisori da cambiare. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, ce l'abbiamo imparato dalla vicenda dei seggiolini antiabbandono, nel cui la legge è entrata in vigore inaspettatamente, diciamo così, e non, semplicemente non c'era merce disponibile, tanto che lì è stata fatta una moratoria delle sanzioni. Sì. Ecco, qua, ma però qui c'è non ci sono le tempo. Sanzioni. No, sì, c'è un po' più di tempo, ma non è questione di sanzioni. Qui c'è la cessione della banda 700 alla telefonia, certo. e quindi quelle date non si possono spostare, quindi non si potrà fare una moratoria se non ci sono abbastanza TV. E poi, insomma, mi permetto di spezzare una lancia verso anche soluzioni alternative che possono essere valutate, tipicamente il satellite. Certo, TVSAT sì. Oggi offre quello che il digitale terrestre promette di offrire dal 2022, invece TVSAT lo offre già oggi, quindi i canali per esempio in 4K, Rai 4K è diffuso su TVSAT, altri contenuti in 4K, ci sono altri 3 o 4 canali in 4K sempre nella piattaforma TVSAT gratuita, ricordiamo, ci sono nel primo semestre del 2020, quindi di quest'anno, andranno in onda tutti i TGR, quindi i TG regionali via satellite di tutte le 23 edizioni che vengono fatte in tutta Italia, quindi le regioni e le due minoranze linguistiche, quindi hai praticamente tutto, praticamente forse ti manca qualche TV locale, forse qualche TV locale, che ma poi non molti è neanche TV detto, locali sono ormai anche su satellite, perché la banda su satellite costa molto meno, con una qualità di ricezione migliore, perché proprio perché la banda costa meno viene usato di solito un bitrate un po' più alto su satellite, e ricordiamolo, molti TV, direi la stragrande maggioranza dei TV in commercio adesso, hanno già il tuner satellitare. Ecco, domanda, perché uno potrebbe pensare, ma accidenti, devo mettere il decoder di TVSAT? Non è detto. Quella, cioè, è una scelta, oppure metto la cam, quindi il lettore di card all'interno del TV. I TV sono già equipaggiati con la Common Interface, quindi con questo slot in cui infilare questo lettore di card. Così uso lo stesso telecomando del televisore. Lo stesso televisore, semplicemente. Sì, sì. Devo perché col decoder c'ho il telecomando del decoder. Ecco, il decoder, il telecomando del decoder è magari un po' noioso. L'unica cosa che vale la pena di verificare è se il proprio TV è certificato TVSAT. Questo sul sito di TVSAT c'è la lista. Questo perché anche un TV che non è certificato riceve TVSAT, l'unico problema è che non riconosce le posizioni dei canali. E quindi non mette Rai 1 all'1, Rai 2 al 2, Rai 3 al 3 e così via, e fa tutto il bouquet, diciamo, più usabile, ma sintonizza i canali. Magari Rai 1 al 1226 non è così comodo, ovviamente, per tutti, visto che via satellite ci sono circa 1500 canali in chiaro, quindi sì, se ne vedono molti, ma molti di più di quelli che ci sono sul digitale terrestre, esatto. Anche stranieri. No, l'ultima cosa che vorremmo dire è il bonus TV, sì, che è importante. Sì, il bonus TV perché? Perché a fronte di questo cambiamento massivo e un po' imposto, diciamo così, di TV, che c'è un certo punto di vista, se vogliamo, il sistema paese è anche positivo, perché svecchiamo un parco TV che in molti casi è molto vecchio, e questo abiliterà a nuovi tipi di servizio. Un emittente non farà mai un canale in 4K se non c'è una grande percentuale di televisori in 4K. Ecco, diciamo che svecchiando il parco TV, levandoci, si spinge un po', si spinge un po' anche l'evoluzione tecnologica. Sì, sì. Ma detto questo, si chiede ai consumatori un sacrificio importante. Per questo motivo il Ministero ha predisposto il bonus TV per le fasce di reddito, diciamo, meno abbienti, meno ricche, quindi gli ISEE inferiori ai 20.000 euro. Ricordo, perché ogni tanto qualcuno ci casca e me lo chiede, devo dire probabilmente Radio 24 non dovrebbe accadere, ma l'ISEE non è il reddito. No. L'ISEE è un indicatore dello stato reddituale del nucleo familiare, che dipende da tanti altri fattori, che si calcola, che dipende dal numero di figli a carico, che dipende dal numero di immobili, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi non è che se uno ha un reddito superiore ai 20.000 euro... Mi fa riferimento all'ISEE. All'ISEE, che c'è un tool sul sito dell'INPS per calcolarlo. Sì. Ecco, i nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro possono acquistare un TV o un decoder, tra quelli compatibili appunto con l'HEVC main 10, che abbiamo detto, che sono listati sul sito del Ministero, ma sono 2.000... codici diversi, praticamente quasi tutto quello che c'è sul mercato, con uno sconto di 50 euro immediatamente alla fonte. Quindi molti quindi decoder in negozio vengono fuori gratis. I decoder sono gratis, praticamente sono gratis, perché costano 39-49 euro, no? Eccetera, eccetera. Quindi il decoder per gli aventi diritto è gratis, uno per famiglia, è ben inteso. Il TV invece è semplicemente uno sconto di 50 euro, che non è molto per un TV da 2.000 euro, che però è molto, parliamoci chiaro. Su un TV da 500 euro è il 10%. Su 500 euro è il 10%, ma su un 32 pollici da 99 euro, come ho visto sul mercato adesso, è il 50%. Quindi sì. Può anche essere rilevante, per esempio, per sostituire magari un TV di una cucina. Ecco, non è che consiglierei propriamente per la qualità d'immagine un TV da 99 euro, ma comunque non possiamo omettere dall'osservare che sul mercato ci sono anche questi prezzi. Bene, Gianfranco, grazie per essere stato con noi, per la chiarezza e la competenza. A presto. Grazie mille. E così concludiamo questa versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Grazie come sempre per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana, quindi nella prossima puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Come sempre vi ricordo che se ci date una mano per farci un po' di pubblicità, ma non tanto, questo è quello che vorrei sottolineare tutte le volte, non tanto per noi, pubblicità per noi, però per i concetti, anche per gli ospiti che facciamo, che mettiamo davanti al microfono, perché penso che sia importante evangelizzare il paese, colleghi, parenti, amici, sull'importanza del mondo digitale, con tutte le opportunità, che sono tantissime, e poi anche a volte i rischi, oppure le cose che non si possono fare. Quando qualcuno dice si può votare online, no, non si può. Ad oggi la tecnologia non permette di raggiungere tutte le caratteristiche che abbiamo descritto più volte, tipiche del voto cartaceo, non si possono riprodurre digitalmente. Questa è una cosa che veramente non entra nella zucca di certe persone che continuano ad insistere. Andate online sul nostro sito internet, ci sono almeno un paio di puntate dedicate al voto online, il voto digitale. Andate, vi documentate, poi se avete ancora delle domande potete anche scrivermi. Ci risentiamo la prossima settimana.